Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo bene questa settimana stando insieme. Fabio Candadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Revisione al motore. Parliamo del cuore. Internet Mon Amour. Primi freddi, primi caldi. Iniziamo la settimana in bellezza occupandoci del nostro cuore. Sarà lui infatti il protagonista della nostra puntata. Quindi, se il vostro cuore vi sta a cuore, fermatevi. Consigli pratici per mantenerlo sano, quindi efficiente a lungo. La manutenzione è fondamentale per i motori, figuriamoci per lui, che è il motore della vita. Ma non solo. Oggi faremo una vera e propria revisione del nostro cuore. Ci occuperemo della parte meccanica e di quella elettrica, impareremo a leggere i segnali che ci manda per riconoscere quelli da non sottovalutare. Ma attenzione, faremo di più. Aggiungeremo un'altra variabile nella nostra analisi, il sesso. Il cuore delle donne e quello degli uomini non sono uguali e non è solo un problema di dimensioni. Ne parliamo oggi con la dottoressa Lidia Rotavenda, presidente di ALTA, l'associazione Lotta alla Trombosi. Buongiorno e bentornata. Grazie, buongiorno. In linea abbiamo invece il professor Stefano De Servi, che è caduto. Sì, allora che riprendiamo dopo. Intanto chiedo a voi, se siete pronti per la revisione, di chiamarci subito al nostro numero verde 800 24 0024, oppure di mandarci come al solito un sms al 349 238 6666. Allora, dottoressa, prima di addentrarci nelle differenze, il nostro cuore è più piccolo, vero? Il cuore delle donne. Il cuore delle donne è un po' più piccolo, sì. Ma è molto grande. È molto potente. È molto potente. Io direi di occuparci di alcuni sintomi che spesso allarmano sia gli uomini che le donne, perché a torto o a ragione, e questo sarete voi a dircelo, vengono considerati come segnali sospetti. Intanto saluto il professor De Servi. Buongiorno professore. L'abbiamo riagganciata nuovamente. Buongiorno a lei. Il professor De Servi è direttore dell'unità operativa di cardiologia all'ospedale civile di Legnano. Dottore, lei si occuperà del cuore degli uomini, ma non solo. Facciamo Non facciamo distinzioni. No. Andiamo invece a analizzare alcuni che sono considerati dei sintomi sospetti, o almeno ci preoccupiamo. Il primo è la mancanza di fiato. Può succedere salendo le scale, quando siamo costretti ad accelerare il passo magari per prendere il tram al volo. Perché no, anche, dottoressa Rotavender, quando dobbiamo incontrare un amato. Per l'emozione. Per l'emozione, che è il batticuore. Beh, la mancanza di fiato è qualcosa che può essere anche assolutamente normale, fisiologica. L'emozione provoca mancanza di fiato, ma non è che per questo uno si deve sentire malato. Quella è la mancanza di fiato più bella. Comunque andiamo a sentire un breve estratto, così entriamo un po' nel tema, che abbiamo preso da Questione di Cuore, ve lo ricordate? Magnifico, con Antonio Albanese e Kim Rossi Stewart. Aspetta, che c'è? Che ti senti? Prendiamo un taxi. E niente, Albert, niente. Non ci pensare, respira. Oh, guarda, guarda. Basta così, interrompi. No, gliela faccio. Interrompi. No, gliela faccio. Allora, c'è un altro indizio che ci preoccupa e di cui vorrei occuparmi oggi: il ritmo del nostro cuore, che noi ci misuriamo sentendoci il polso, che a volte ci sembra regolare, a volte sembra cambiare ritmo, a volte perdere il ritmo, le famose extrasistole. Iniziamo a darvi un breve esempio del polso che non ci crea problemi. Però può andare anche più veloce. Si dice perdere un po' il ritmo, le famose extrasistole. Andiamo. Un'altra fonte di grande preoccupazione è il dolore alla parte sinistra del torace, tra lo sterno e la spalla, scende a volte tra il braccio, in alcuni casi prende anche il viso, vero dottoressa? La mandibola. Oppure quel senso di oppressione, come l'idea di avere, no, una persona che ci si è seduta. È abbastanza addosso. Tipico che il paziente riferisca il dolore relativo a questo disturbo mettendosi una mano aperta sul petto, e nel modo in cui lo racconta già si può sospettare qualcosa. E abbiamo anche qui un breve estratto da Tutto può succedere. Harry, ma cos'hai? Non ho niente, sto bene. Hai dolore al torace? Come se ci fosse un elefante seduto sopra. Chiama l'ospedale, digli di mandare un'ambulanza. Bene, bene, restate, riprenderemo questi tre sintomi declinandoli al maschile e al femminile, chiamateci, ma approfittate anche del nostro numero verde per parlare con i nostri esperti delle vostre coronarie, di valvole, ne abbiamo ben quattro, dell'esito sospetto di alcuni esami, penso ad esempio all'elettrocardiogramma o all'ecocardiogramma. Un invito particolare è rivolto anche a chi ha avuto un infarto. Sappiamo che questo evento si presenta in modo differente negli uomini e nelle donne. Chiamateci, è un invito che vi faccio, come si dice, con il cuore. 800 24 0024, messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, parliamo di internet, non solo indispensabile per il lavoro, ma è diventato di uso comune anche in famiglia. Insomma, lo sappiamo, viviamo in una società tecnologica, ma ahimè esagerare è facile e può nascere una vera e propria dipendenza. Ne parliamo oggi con il dottor Federico Tognoni, psichiatra del Gemelli di Roma e responsabile dell'ambulatorio Internet Addiction Disorder. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Vogliamo dare subito una definizione? Della dipendenza da internet. Allora, innanzitutto non dobbiamo assolutamente demonizzare, perché le persone che sviluppano una vera e propria dipendenza, per fortuna, sono una parte minore di tutte le persone che frequentano internet, per cui tranquillizziamo le mamme a casa che vedono i loro figli attaccati al computer. Sicuramente si può cominciare a pensare a un fenomeno di dipendenza quando l'inversione del rapporto tra la vita che si passa sul web e quella fuori dal web muta in maniera significativa a favore delle attività intra-web, per cui se un ragazzo prima praticava sport o usciva o semplicemente parlava di più a tavola e di colpo o progressivamente non lo fa più, allora magari questo può essere un buono spunto di riflessione. Tenendo presente che anche delle operazioni mentali come l'eloquio spontaneo, la comunicazione non verbale, la capacità di guardarsi negli occhi o di tollerare un rossore possono essere seriamente inficiati da una prolungata e quotidiana permanenza sul web. Dottore, vogliamo dare qualche regola di prevenzione? Di stare vicino ai propri figli, anche se questo sembra scontato, sì, però senza necessariamente controllarli a loro insaputa, perché ecco questa storia del controllo, noi sentiamo tanti genitori che a fin di bene provano a controllare i figli quando loro non lo sanno, e questo in realtà non funziona quasi mai, perché tutte le volte che proviamo a controllare l'altro sacrifichiamo un elemento di verità, di autenticità all'interno delle relazioni tra esseri umani, e soprattutto aumenta poi il clima di sfiducia da parte dei giovani e di paranoia, sì, da parte dei genitori. Senta dottore, lei mi parla di giovani, sono loro quelli più colpiti, o questa sorta di dipendenza può colpire, può interessare anche persone mature? Social network e giochi di ruolo sono più appannaggio dei giovani. Sì. Il mondo, per esempio, legato alla pornografia o il gioco d'azzardo su internet ha già una componente più adulta. Dottore, il vostro è un ambulatorio pubblico al Gemelli? Quindi, assolutamente sì. Quindi si può accedere da voi con il ticket? Assolutamente. Chi arriva da voi? Ragazzi appunto prevalentemente giovani, hanno cominciato lentamente a venire da noi tra i 20 e i 30 anni con diciamo scarsa consapevolezza iniziale del problema, però noi siamo soddisfatti perché già dopo il primo colloquio questa consapevolezza la vediamo aumentata. E come fate per convincerli? Non li dobbiamo convincere, gli proponiamo innanzitutto è già bene che riescono ad arrivare a fare, certo, il primo colloquio, perché noi in fondo gli proponiamo quello che loro in teoria hanno difficoltà a fare, ovvero un contatto dal vivo. All'interno del primo colloquio consideriamo la possibilità di una struttura psicopatologica sottostante la dipendenza e successivamente tentiamo un inserimento all'interno di gruppi di riabilitazione che per loro stessa natura il gruppo aiuta. Sì, perché lì c'è tutto, certo, il contatto dal vivo, la comunicazione non verbale si riattiva, per cui per noi magari lo diamo per scontato di riuscire a stare in un gruppo, per persone che da troppo tempo stanno di fronte al web e solo lì, questo già vediamo che non è completamente scontato, anzi assolutamente scontato. Allora io vi rimanderei al sito del Policlinico Gemelli, dove potete trovare anche le indicazioni per questo ambulatorio che in questi tempi sarà super gettonato, dottore. Sì, ci sono molte richieste e spero che fra breve parte già il primo gruppo di riabilitazione. Allora, alla dipendenza da internet, ma io vorrei parlare anche di dipendenza da telefonino, dedicheremo insieme al dottor Tognoni prossimamente una puntata, per cui già se vi sentite in qualche modo tratteggiati da quanto ci ha detto il dottor Tognoni, scriveteci perché riprenderemo sicuramente questo tema. Grazie dottore, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno, arrivederci. Pronto soccorso. Ecco, torniamo a parlare del nostro cuore, del nostro batticuore, ma anche di valvole coronarie. Insomma, oggi facciamo una revisione in grande stile insieme al professor De Servi e alla dottoressa Lidia Rottavendere. Abbiamo già subito le chiamate perché abbiamo Michele da Bologna. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, innanzitutto vi ringrazio per questa possibilità e poi complimenti per l'ottima trasmissione che seguo da sempre, praticamente. Senta, ho un problemino. Da circa 6 mesi io sentivo dei disturbi al cuore. In pratica, misurando il polso oppure prendendo la vena al collo, il battito, ogni tanto mi saltava un battito, quindi il cuore si prendeva una pausa, si prende una pausa e riparte. Sì. Questi episodi qua mi succedono soprattutto quando ho finito di cenare o comunque di pranzare e poi, tenuto conto del fatto che io comunque faccio abbastanza una regolare attività fisica, bravo, vado a correre, non mi succede mai quando corro, riesco a correre anche un paio di ore durante l'attività fisica, sì, però mi succede quando da riposo improvvisamente mi metto in movimento in maniera abbastanza veloce. Ho fatto un Holter e mi è risultato una diagnosi di extrasistolia. Allora, Michele, affidiamo il suo cuore al professor De Servi. Professore, sì, ci ha detto tante cose, Michele. Michele è un buon osservatore di se stesso, ha un'estrasistolia, da come la descrive sembra essere un'estrasistolia, un fenomeno assolutamente benigno. Ha fatto un Holter, quindi l'Holter gli dirà anche il numero di estrasistoli che ha durante la giornata, se queste estrasistoli sono isolate oppure avvengono anche una dietro l'altra, quelli che noi chiamiamo i run di estrasistoli. Le estrasistoli li abbiamo tutti, lui le nota soprattutto dopo mangiato e scompaiono durante l'attività fisica, possono essere legate a un po' di ripienezza gastrica, di gas che si forma, di aria che si forma all'interno dello stomaco e può fungere da spina irritativa, scompaiono durante lo sforzo, il che è classico dei fenomeni benigni non legati a cardiopatia, quindi… Quindi noi ci portiamo già a casa questa indicazione, che se facciamo, non sentiamo, voi le chiamate extrasistoli, noi le chiamiamo anche come farfalline, il cuore, sì, che si inciampa, eccetera. Se scompaiono quando facciamo attività fisica, questo è un buon segno, vero? Questo è in genere un buon segno. Però portiamoci già a casa questo, diciamo, però… Che se uno dovesse, e se un signore o una signora dovessero sentire questo fenomeno, che poi è stato ben descritto anche da quella sequenza aritmica. Le è piaciuta? Sì, sì. E Laura Vanossi è riuscita veramente a ricostruire il nostro battito. Diciamo ovviamente di sentire il medico e di fare un elettrocardiogramma, perché se già l'elettrocardiogramma è normale, siamo quasi certo che sia un fenomeno benigno. Se l'elettrocardiogramma è patologico, vanno proseguiti gli accertamenti. Andiamo a Brescia, ci aspetta Loretta. Buongiorno Loretta. Sì, buongiorno a tutti. Io ho una domanda un po' particolare. Io non riesco assolutamente a correre, a fare il famoso riscaldamento in palestra dei 10 minuti, perché sinceramente sento un dolore fortissimo, presumo al cuore, e una mancanza proprio di aria. Mentre invece il test da sforzo, l'elettrocardiogramma e tutto tutti i controlli che ho fatto sono assolutamente normali. Questo da sempre. Questo da sempre. Dottor De Servi, professor De Servi, perché a Loretta capita? Ma bisogna vedere, se la prova da sforzo è normale, tutto è normale, ha già fatto gli accertamenti, io la tranquillizzerei nella maniera più assoluta. Può darsi che sia anche un dolore di tipo muscolare legato alla dinamica dei muscoli respiratori. Io tranquillizzerei la signora, se ha già fatto tutti gli accertamenti e questi sono negativi, la prova da sforzo è negativa, faccia pure la sua attività fisica, magari si prepari prima bene con qualche esercizio di tipo respiratorio, faccia delle espansioni del torace prima di andare, di mettersi a correre, e faccia un po' di preriscaldamento, perché sembra essere proprio un dolore di tipo muscolare legato alla dinamica respiratoria. Dottoressa Rotavender, la medicina di genere ci sta dicendo ormai da anni che il cuore delle donne ha delle caratteristiche particolari che non possono più essere trascurate. Allora, seguendo questa indicazione, partendo quindi dalle caratteristiche del cuore femminile, cosa si sente di suggerire alle donne in ascolto? Ma intanto mi piacerebbe che le donne in ascolto cominciassero a visualizzare il loro cuore, che potrebbe già essere un passo molto importante, perché noi diamo per scontato che tutto quello che c'è nel nostro organismo funzioni, faccia quello che deve fare, ma raramente, forse perché non abbiamo gli strumenti, ci fermiamo a pensare com'è. Il cuore è un muscolo, è un muscolo involontario, mentre quasi tutti gli altri muscoli del nostro corpo sono volontari, li comandiamo noi, quindi il cuore non lo comandiamo. È un muscolo cavo e ha una funzione molto importante, che è una funzione di pompa. Sì. Deve aspirare il sangue sporco che torna dalle vene, mandarlo a ripulirsi nei polmoni e poi spedirlo pulito e carico di buone sostanze a tutti gli organi. Questo cuore però, essendo un muscolo, anche lui ha bisogno di essere nutrito e ha bisogno di muoversi, quindi ha un sistema elettrico che è fatto di terminazioni nervose che gli danno questo ritmo direttamente su impulso del cervello, e poi ha un sistema idraulico che sono le coronarie che servono per portare al cuore il nutrimento, perché anche il cuore deve nutrirsi. In più batte e lo sentiamo, se vogliamo lo sentiamo a volte quando siamo sdraiati, le persone particolarmente magre lo possono sentire, questo non è mai preoccupante, a volte lo sentiamo nell'orecchio addirittura quando ci sdraiamo, e possiamo sentirlo andando a cercarlo, non credo che molti siano capaci di farlo, basta seguire il proprio pollice, subito sotto il pollice nel polso, appoggiare due dita che non devono essere il primo e il secondo, ma il secondo e il terzo, e si sente. Questo è un modo per parlare con il nostro cuore e sentirlo. Ci sono situazioni in cui il cuore si adatta, perché così come la pressione del sangue sale e scende secondo il bisogno, quando tutto funziona bene il cuore fa lo stesso. Quindi non dobbiamo spaventarci se quando cominciamo a correre il cuore aumenta il ritmo e va più veloce, lo fa apposta. Lo fa perché deve portare maggiore apporto di ossigeno e di nutrimento. E non dobbiamo spaventarci se ogni tanto manca un colpo o è disordinato. Però se impariamo a sentirlo, questo aiuta. Le donne sono degli esseri un po' particolari, adesso da 2 anni, 3 anni si fa un gran parlare di medicina di genere, sembra una telenovela quella che ci si è resi conto che le donne sono diverse, non sono degli uomini a forma piccoli. Di donna, sono delle donne che sono diverse dal punto di vista anatomico, dal punto di vista biologico e soprattutto dal punto di vista ormonale. Le donne hanno anche assunto uno stile di vita che piano piano sta diventando sempre maschile. Più simile a quello dell'uomo, quindi forse certi fattori di rischio, il fumo, lo stress, il sovraccarico di responsabilità, tutto questo può contribuire. Di fatto abbiamo sempre pensato che le donne potessero essere protette dai loro ormoni, perché ci sembrava che le statistiche dicessero che le donne avevano meno infarto. Adesso ci siamo resi conto che invece le donne hanno l'infarto, ma purtroppo l'infarto è più subdolo. forse perché le coronarie delle donne sono più piccole, più tortuose anche, forse perché spesso le donne hanno il diabete e non lo sanno, forse perché le donne sono talmente tanto occupate ad occuparsi di coloro che dipendono da loro stesse che non hanno tempo di occuparsi di se stesse, e allora certi sintomi sono più sfumati, molto spesso vengono con arroganza da qualche medico scambiati per gastrite, e quindi la donna viene mandata dal gastroenterologo e magari quello è un infarto, questo ritarda la cura e purtroppo ritarda anche il successo, rallenta il successo. Buongiorno Silvano. Buongiorno. Eccoci. Dunque, io le dico subito, io ho avuto un infarto il 27 febbraio del 2008. Sì. E da allora mi sottopongo con una certa cadenza ai controlli. Controlli, quindi degli esami, no? Alla fine il controllo dei trigliceridi, colesterolo. Silvano, mi scusi, lei si è accorto, perché arrivano molti messaggi e ne approfitto. Lei si è accorto di quali sono i sintomi che le hanno fatto capire che... quelli classici, io difatti mi sono autodiagnosticato. Esatto. Cioè, ce li ricorda? Il dolore alle spalle, una sudorazione atipica in presenza di, cioè io sentivo freddo allo stesso tempo mi sembrava di sudare, sì. Stavo sudando, ma soprattutto il dolore alle spalle che poi è aumentato. Difatti io le dico, io ero in macchina, mi sono recato immediatamente al volevo andare a dirle al pronto soccorso, poi per una questione di comodità, visto che il medico era più vicino, sono andato nell'ambulatorio medico e ha chiamato subito il soccorso. Comunque io nel giro di mezz'ora, praticamente da quando ho avuto male, ero in ospedale, dopo tre quarti d'ora ero in camera operatoria che mi hanno fatto l'angioplastica. Ecco, il cuore è tempo anche. Quanti anni ha, scusi Silvano? 50. Sì. La sua domanda era, faccio i controlli ma? Cioè faccio i controlli ma, cioè io non voglio vivere neanche con l'ossessione. Troppo controllato. Esattamente, cioè no, non troppo controllato, giustamente, sì. Evito di fare delle cose ovviamente che non siano più consone al mio stato di salute, però quello che volevo chiedere è se oltre a questi controlli di routine, eccetera, non so, avere qualche cosa di diverso qui è... Ma lo chiediamo al dottor De Servi, professor De Servi. Professor De Servi, Silvano ci racconta una storia molto interessante. Innanzitutto ci dice che si è autodiagnosticato, il che vuol dire che a forza di parlare dei sintomi dell'infarto ormai li conosciamo, e comunque è meglio fare una corsa in più che una corsa in meno, giusto? Giustissimo, è stato davvero bravo. E se fossero tutti come lui, sicuramente avremmo dei risultati decisamente migliori degli attuali nel trattare questa malattia. È stato bravo nel farsi la diagnosi, in andare nel posto più vicino, perché in questo modo è stato chiamato il 118, perché l'arrivo del 118 garantisce poi un percorso facilitato, perché il 118 allerta subito la sala di emodinamica e quindi Silvano ha potuto fare l'angioplastica in tempi brevi e come ha detto lei, il tempo è muscolo, diciamo che è una storia emblematica e che dovrebbe essere sempre così, purtroppo non è così, purtroppo sì. Qualche volta ci illudiamo che quel sintomo che magari non abbiamo mai sentito dipenda da altre cose e il pensiero dell'infarto magari è dietro l'angolo, ma non vogliamo affrontarlo direttamente e pensiamo che possa essere qualcos'altro e si perde tempo, perdendo tempo l'infarto si è rischia. Più esteso e poi anche i risultati a distanza meno buoni. La domanda specifica sui controlli, dice mi voglio controllare ma non deve diventare un'ossessione. No, certo, i controlli però è giusto farli, ecco. Innanzitutto non so se lui fosse un fumatore prima e adesso ha abbandonato il fumo, se fa attività fisica, se fa una vita sana è già è forse meglio che è meglio una vita sana che dei controlli ripetuti e inutili. I controlli possono essere anche una volta all'anno, una prova da sforzo la farei, perché se ha fatto un infarto piccolo ha comunque riaperto una coronaria che si era occlusa acutamente, quindi una prova da sforzo all'anno per adesso la farei, gli esami di laboratorio per vedere se i farmaci che sicuramente starà assumendo fanno quello che devono fare. Fanno il loro lavoro. Dottoressa Rotavender, Silvano ci ha descritto proprio i sintomi dell'infarto tipico, no? Questo dolore alle spalle, questa sudorazione. Nelle donne lei anticipava che l'infarto può presentarsi in maniera molto più subdola. Sì, c'è una campagna molto bella che hanno fatto gli inglesi che ha questo tipo di messaggio. Se i sintomi che ho avuto io li avesse avuti mio marito, lo avrebbero immediatamente portato al 100, avrebbero chiamato il 118, ma siccome li ho avuto io che sono una donna, hanno pensato che fosse un'ulcera gastrica. E questo secondo me la dice lunga. È importante anche notare che questo signore è molto giovane, perché 50 anni è un'età molto precoce per avere un infarto. Neanche io lo conosco e trovo giusto che lui abbia preoccupazione adesso per il suo stile di vita, ma adesso è il dopo. Allora forse, se possiamo lanciare un messaggio, è che questa attenzione per il proprio stile di vita, per come siamo fatti, il mettersi davanti allo specchio, misurarsi questo benedetto giro vita, non ci basta piace, un centimetro, lo sa, so che non ci piace, però la dobbiamo fare, altrimenti poi tutto diventa molto più complicato. È importante fare la prevenzione primaria, quindi prima che succeda e non solo dopo, ma è fondamentale farla dopo. Un paziente che ha avuto un infarto e che investe anche sul suo stile di vita modificandolo in termini positivi è un paziente che avrà il massimo del risultato dalle cure, se le cure sono state fatte bene. Un paziente che invece persiste con un sovrappeso, con l'inattività fisica, con un'alimentazione scorretta, con una cattiva assunzione dei farmaci, è un paziente che purtroppo non ha un buon destino davanti. Andiamo a Giorgio che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno a voi, vi seguo sempre con molta attenzione. Allora, io le domande che avrei posto al professore sono quasi le stesse dell'ascoltatore che mi ha preceduto. Sì. Però il mio... ce n'è sempre una di riserva, come si dice. Il mio infarto è stato in modo diverso. Cioè, io alle 3 del mattino ero a letto, mi dovevo alzare poco dopo, ho come un pugno nello stomaco, mi sono alzato, mi sono accosciato e poi ho detto: questo è infarto. E devo premettere che a giugno io l'ho fatto agosto, il 24 di agosto, e a giugno mi avevano già pronosticato l'infarto. Però io non gli ho dato... No, sai, no, che le cose che non vogliamo sentire, no, che ci fanno preoccupare... Non gli ho dato bene. E adesso come sta? Adesso diciamo che sto bene, sto prendendo delle medicine, ma quello che mi preoccupa è che io non ho mai preso medicine e per quanto tempo io dovrò prenderle. Ho fatto varie prove da sforzo e resto. Tutto a posto. Dicono che è a posto. Dicono che il cuore è buono, è solo i raccordi che non... I raccordi che non vanno, che non andavano, adesso hanno cercato. Adesso è tutto a posto. Non fumo più, fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno, sono in sovrappeso che non riesco a calare. E tutto qua. Qualche parolina di conforto. Professor De Servi, sono qua. Innanzitutto iniziamo con a rassicurare Giorgio, che ha detto: sì, avrei bisogno di, e noi siamo qua apposta, no? Sicuramente, innanzitutto è stato molto bravo a smettere di fumare, perché fumatore 3 pacchetti, è stato veramente, è un esercizio di buona volontà, per cui gli faccio i complimenti e deve continuare. Anch'io, così, anch'io glieli assolutamente faccio. Assolutamente. Quanto al sovrappeso, lui sa che questo è un problema, alcune volte col fai da te è difficile riuscire a perdere peso. Se non si riesce riducendo la dieta e facendo e usando il buon senso, un dietologo, l'aiuto di un dietologo in questi casi è fondamentale per ottenere il risultato. Quanto ai farmaci, ci sono 2 farmaci che devono essere assunti per la vita, che sono l'aspirina e una statina, che riduce il colesterolo, ma soprattutto migliora la prognosi dei pazienti che hanno avuto già un evento, e poi se ha fatto un'angioplastica c'è un altro farmaco che aiuta l'aspirina, si chiama antiaggregante, che aiuta l'aspirina nella sua azione di tenere fluido il sangue, che va assunto per un anno in genere. Segua le prescrizioni del suo medico, del cardiologo di riferimento. Ecco, occupiamoci, come abbiamo anticipato, delle coronarie. Si possono ostruire, professor De Servi? Ecco, e c'è questa placca che si deposita dentro queste arterie e quindi che fanno più fatica. Si può fare prevenzione, come sottolineava anche la dottoressa Rotavender? Certo che si deve fare prevenzione. Allora, le diamo queste raccomandazioni per... Le raccomandazioni sono quelle di evitare il fumo, perché il fumo è molto dannoso per le arterie, soprattutto in chi ha già una condizione che non può evitare, come ad esempio un diabete, un'ereditarietà per malattie cardiovascolari. Evitare assolutamente il fumo e poi fare una vita sana, cercare di mantenere il proprio peso. La circonferenza addominale, come è già stato detto, è un marker di grasso viscerale, e il grasso viscerale è un vero e proprio organo che produce le sostanze infiammatorie che possono portare alla deposizione e alla formazione di placche. In particolare le coronarie sono le prime arterie colpite, sì, dalla malattia aterosclerotica. Fare attività fisica, basta un paio d'ore alla settimana di cammino svelto, non bisogna fare cose eccezionali o iscriversi a corsi particolari in palestra, ma basta il cammino veloce. Diciamo che è questa, un'alimentazione sana che includa il pesce almeno un paio di volte alla settimana, la frutta, la verdura, non un'alimentazione sbilanciata sui grassi. Dottoressa, le malattie cardiovascolari nel loro insieme, quindi l'infarto, perché stiamo parlando di quello, ma anche l'ictus cerebrale, anche le arteriopatie periferiche, tutte le malattie da trombosi e da embolia, non sono malattie da killer. È inutile cercare il colpevole, bisogna trovare la squadra dei complici, che moltiplica per ciascuno la propria pericolosità e quindi aumenta esponenzialmente il rischio di andare incontro a malattia. Sono malattie che purtroppo sono subdole perché si generano nel tempo, sono legate in parte all'usura del tempo. Parlavamo di coronarie, le coronarie invecchiano, stanno lavorando fin dal primo battito del cuore dell'embrione che stava nell'utero della madre, e quindi negli anni inevitabilmente vanno incontro a un processo di usura. Quest'usura è accelerata in parte da un codice genetico che noi ci portiamo dietro, perché siamo il frutto genetico della nostra famiglia, di nostro padre e di nostra madre, e su questo codice genetico possono giocare a favore o a sfavore certe scelte che noi facciamo. Il fumo, il colesterolo alto, il sovrappeso, lo stress, tutto quello che è stato citato dal professor De Servi, sono i complici della squadra. Dobbiamo pensarci prima, presto, in tempo, perché altrimenti l'usura è fatta. La placca aterosclerotica è un processo infiammatorio che si crea all'interno della parete del vaso ed è come una... punto di infiammazione molto importante, e su questo punto di infiammazione che cambia il flusso del sangue, quindi ostruisce il passaggio del sangue e di quello che il sangue si porta dietro, quindi ossigeno e sostanze nutritive, si formano dei trombi che sono degli aggregati, delle piastrine. Per buona intenzione il sangue cerca di guarire questa infiammazione, ma purtroppo l'ostruzione peggiora e il sangue non arriva. Quindi il concetto più importante è che dobbiamo avere cura del nostro cuore a partire da subito, e anche del cuore di quelli che dipendono da noi. Certe madri che con troppa leggerezza permettono che i loro bambini si nutrano male, con cibo di cattiva qualità e molto ricco in calorie, sanno che stanno facendo il danno dei loro bambini. Non possiamo avere il 30-35% di bambini sovrappeso in Italia, il 55% di diabetici negli Stati Uniti, che non, in alcuni casi non sanno di esserlo. È una situazione molto grave e le risorse degli sistemi sanitari purtroppo non ci saranno per tutti, quindi dobbiamo pensarci da soli, ognuno deve pensare un po' per sé e per chi dipende da lui, perché ogni madre, pertanto per tornare al tema delle donne, dovrebbe essere responsabile del proprio cuore, ma responsabile anche del cuore di coloro per i quali cucina, per i quali provvede all'alimentazione, all'esempio, anche questo. Professor De Servi, io vorrei rispondere a diversi sms, devo dire firmati, quelli che sono firmati, tutti al femminile, che mi chiedono una spiegazione e anche un chiarimento quindi sul prolasso della mitrale. Molti lo scoprono facendo un ecocardiogramma. Perché molte donne, professore? Perché è più frequente nel sesso femminile, diciamo che tra il 2 e il 3% della popolazione femminile è portatrice di prolasso della mitrale, quindi è una condizione molto frequente, diciamo che di per sé non è nulla di patologico, è legato al fatto che la mitrale ha dei lembi costituiti di un tessuto che si chiama tessuto mixomatoso, per cui i lembi sono un po' ridondanti. Questa è una condizione che col tempo può dare origine a un'insufficienza della valvola, cioè la valvola, i lembi della valvola non coaptano più bene, cioè sì, non si avvicinano l'uno all'altro in maniera assoluta, per cui un po' di sangue passa dal ventricolo all'atrio quando il ventricolo, la pompa del cuore, si contrae e può dare origine a insufficienza mitralica. Questa insufficienza mitralica può sorgere anche acutamente, però qui le donne sono un po' favorite, perché anche se il prolasso della mitrale è più frequente nelle donne, le complicanze del prolasso della mitrale sono più frequenti negli uomini. Ah, bene, diciamo, cioè bene, mi spiace. Una piccola rivincita. Una piccola rivincita. Sì. Allora, professor De Servi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie. E grazie. Grazie anche a voi, grazie. Invece la dottoressa Lidia Rotavender viene con me perché diamo il benvenuto al dottor Attilio Speciani, che è specialista in allergologia. Mi sono impaperata. Buongiorno dottor Speciani. Buongiorno a tutti voi. Mi impapero in allergologia e immunologia clinica. Buongiorno dottore. Abbiamo parlato primi freddi, primi caldi, aggiungerei fumanti, perché questo è tempo, proprio l'autunno viene, è tempo di zuppe. Sì, dato che la dottoressa Rotavender diceva è importante seguire una dieta sana, fornire al nostro organismo tutto quello che ha bisogno per funzionare bene, quindi pochi grassi, ma assolutamente frutta, verdura, io aggiungerei cereali, legumi, allora si va in cucina, dottore? Certo, ci andiamo dove ci sono le basi. Tra l'altro io sono proprio reduce da Washington, dove c'è stato questo congresso importantissimo del American Institute of Cancer Research, che ha studiato e studia ogni anno i rapporti ad esempio tra prevenzione antitumorale e cucina, e non ha idea ad esempio di quanto c'è tutta un'intera sessione è stata dedicata alle spezie, a quanto queste nell'utilizzo del quotidiano, che in alcuni dei nostri interventi precedenti abbiamo parlato, certo. E hanno non solo una valenza preventiva, ma addirittura una valenza che può essere terapeutica sul piano della terapia antitumorale. Quindi si torna al centro, alla natura, utilizzando delle cose sane. Quindi dai, per carità, le zuppe che andiamo a raccontarci oggi, tra l'altro mentre poco fa stavi parlando dei primi caldi, mi vengono in mente proprio la tipica visione americana che era di questi giorni, dei tombini che fumano, no? Che hanno quest'aria di... adesso torniamo in cucina, anziché i tombini, vediamo fumare delle sane tazze, con dentro delle ciotole, con dentro delle cose sanissime. Una la conosciamo, la zuppa di zucca è uno dei prodotti più buoni, ne abbiamo anche parlato recentemente, certo. Questo bel colore arancione, quindi ricca. Ma noi durante tutta questa settimana con il dottor Speciani, oggi quindi suggeriamo la zuppa di zucca, ne abbiamo parlato, ma la zucca è proprio la sua stagione, per cui utilizziamola, mentre nel corso di questa settimana vi suggeriremo, proprio spiegandovi il motivo della nostra scelta insieme al dottor Speciani, altre zuppe da inserire nel nostro menù. Dottor Speciani, noi ci sentiamo domani, allora fa anche rima. Direi che è una delle cose più splendide, mi fa piacere sempre parlarci, e quindi dai, a domani con allora. Va bene? Grazie dottor Speciani, grazie molte dottoressa Rotavender. Grazie a voi. Buona giornata a voi che ci avete seguito, a domani dopo il GR delle 11.